Cause odierne che spingono la donna al lavoro. Il desiderio sempre più manifesto della donna di rendersi economicamente indipendente è un fenomeno particolare dei tempi recenti, poiché la vita moderna spinge dovunque la donna al lavoro, per necessità economiche nella grande maggioranza delle classi lavoratrici e delle classi medie, e per ragioni morali nella piccola minoranza delle classi privilegiate. Imperocché anche la donna delle classi dominanti non si contenta più di essere un fiore, un angelo, un oggetto d'arte o la docile compagna e serva dell'uomo, ma reclama di cooperare con lui al lavoro sociale e rappresentare anch'ella un valore sociale. Ma soprattutto quello che spinge la donna al lavoro è il fatto che il matrimonio, l'unica prospettiva per la donna per ottenere una relativamente sicura posizione sociale, diventa anch'essa una cosa molto difficile e lo sanno purtroppo assai bene le mamme che hanno ragazze da marito. Come volete che l'uomo si addossi a cuor leggero il peso di mantenere una famiglia quando la lotta per la vita si fa sempre più aspra anche per gli uomini? E se la ragazza non ha una dote, non le rimane che il ridicolo di cui la copre la società col nome di zitellona e l'amarezza di una vita squallida e vuota se non è preparata a bastare a se stessa col proprio lavoro. La vita moderna offre inoltre all'uomo celibe molti di quegli agi che per lo passato non poteva procurarsi se non in casa propria, di modo che egli adesso può fare a meno della massaia che gli prepara il pranzo, la biancheria e il resto, evitando così le noie e il peso di una famiglia. Per le crescenti difficoltà della vita, il matrimonio degenera in un semplice affare commerciale. La dote è il suo obiettivo, la ragazza un appendice inevitabile. E lo è diventato tanto un affare commerciale che in Germania, in Inghilterra, in America e in Francia esistono vere borse del matrimonio, di offerte e domande come le borse del lavoro. Uffici matrimoniali, giornali d'avvisi per chi cerca una moglie o un marito, quei loro bravi mediatori che percepiscono un tanto per cento su ogni matrimonio combinato. E con tutto ciò, il Bertillon ci dà, nella sua statistica sui matrimoni, un terzo degli uomini che rimangono celibi in Francia e nello stesso tempo numerosi connubi di giovinette con rispettabili mariti di più di 60 anni. E così il matrimonio moderno, salvo poche eccezioni, è diventato una delle selezioni più vergognose, selezioni di capitali, senza riguardo né alle simpatie né alle grandi disparità di età, con quale vantaggio poi per la specie? Lasciamolo decidere agli antropologi. In tali condizioni è naturale che il trovar marito è diventata la professione quasi più difficile di tutte le altre. E se poniamo mente che le donne quasi dappertutto, tranne in America, eccedono il numero degli uomini, secondo il censimento del 1871 in Inghilterra eccedevano di quasi 1 milione e un po' meno in Francia, si capirà bene come possa rimanere il 40% delle donne non maritate, che devono pure in qualche modo guadagnarsi la vita. Contate poi le vedove, le donne separate dai mariti, le divorziate che aumentano in proporzione enorme in Francia, in Belgio, in Svizzera, ed ecco formarsi tutto un esercito di donne che se non lavorassero dovrebbero o vendersi, e sarebbero ancora troppe, o suicidarsi. È evidente, mi pare, che non è soltanto l'idea teorica dell'emancipazione o un principio astratto qualsiasi che spinge la donna ad essere la concorrente dell'uomo, ma è la lotta per l'esistenza nel vero senso della parola. Perché prescelta la questione del lavoro della donna? Ho prescelto poi la questione del lavoro della donna perché credo questa è il nocciolo di tutta la questione femminile, convinta come sono di questa grande verità fondamentale dell'etica moderna, che vale per l'uomo come per la donna, che cioè il solo lavoro, di qualunque natura esso sia, diviso e retribuito con equità, è la sorgente vera del perfezionamento della specie umana. E infatti, se ogni individuo dell'uno e dell'altro sesso, permettendoglielo le condizioni di salute e di età, sentisse tutta la portata morale di cotesto ideale e dovesse procurarsi da sé i mezzi di sussistenza, partecipando in un modo qualsiasi nella grande visione del lavoro sociale, certo sarebbe tolta una delle più grandi piaghe della società moderna, il parassitismo, fenomeno così raro fra gli animali inferiori di una stessa specie e purtroppo così generale fra gli animali superiori della specie umana. Il Sergi, semplicemente il più illustre degli antropologi d'Italia, quindi non un anarchico, un rivoluzionario o un socialista, il Sergi, dicevo, vede in cotesta piaga del parassitismo sociale la più potente causa della degenerazione umana. E un altro dei sociologi più studiosi e colti d'Italia, e quindi anche non conosciuto quanto merita, Angelo Vaccaro, dimostra come la vita parassitica nuoce tanto alla vittima quanto al parassita stesso. La prima subisce una diminuzione del potere vitale, l'altro una diminuzione della sua complessità organica. Questa legge biologica applicata ai rapporti sociali allarma gli antropologi e i sociologi quanto all'avvenire della specie umana, nella quale il parassitismo tiene un posto così considerevole nella gran disparità delle diverse classi sociali. Ma anche gli scienziati sono pur sempre uomini e si cercherebbe invano nei loro scritti l'applicazione di cotesta legge così positiva e scientifica ai rapporti fra l'uomo e la donna, dove spiegherebbe davvero tutto il suo immenso valore. Parassitismo morale della donna. E qui devo rendermi un po' più chiara. Può sembrare strano che, dopo aver insistito sul fatto che la donna ha sempre lavorato e anche più dell'uomo, io le assegni ora un posto di parassita, ma il parassitismo della donna, nocivo a lei e all'uomo, non è di natura biologica o materiale, bensì di natura etica o morale. Della piccolissima minoranza delle donne che non vivono che di frivolezze, di visite, di toilette, non parlo neppure, perché sono parassiti veri e degenerano al pari dell'uomo della loro classe. Il patrizio romano che cercava di vomitare molte volte per la voluttà di potersi riempire di nuovo era degenerato al pari della matrona romana che, dopo ritornata dai giochi del circo e dopo aver assistito all'agonia del gladiatore, si divertiva poi a torturare con gli spigli le sue schiave. Ma il parassitismo morale della maggioranza delle donne, che è quello di cui voglio propriamente parlare, ha la sua origine invece nel servilismo e nella sottomissione. Nella sottomissione e nel servilismo come si è fatta la selezione morale della donna. Questa ha dovuto sempre compiacere all'uomo in tutto e per tutto. Tutta la sua intelligenza e tutta la sua energia dovettero venire sempre dirette a contentare il suo padrone. Non un'idea, non un sentimento che non fossero i sentimenti e le idee del suo dominatore. La donna fa l'eco dell'uomo, la sua personalità è quasi abolita e se non fa l'eco, deve in famiglia, pro bono pacis, fingere almeno di farlo. Onde quell'astuzia e proclività alla finzione che tutti le rimproverano è stata la sua unica arma di difesa e se non altro è una prova della potenza e della vitalità intellettuale della donna. Se non avesse finto e simulato, sarebbe demolita e ridotta al grado di vero automa. Così avviene che i bambini, anche di buona indole, appunto e soltanto perché deboli, scappino facilmente a dire le bugie, specialmente dove hanno genitori o custodi tirannici. Ma i bambini, fortunatamente, se di indole buona, perdono quel vizio e ne rifuggono non appena hanno raggiunto un sufficiente sviluppo del loro carattere. Le donne, per cotesto rapporto, non possono uscire mai del tutto dall'adolescenza. Purtroppo, questo stato di cose non offrì le condizioni più favorevoli allo sviluppo del vero carattere della donna. Il carattere non si allinea mai col servilismo. Infatti gli uomini e le donne, e soprattutto queste ultime, se sono di carattere indipendente, vengono considerate ribelli, gente inquieta, turbolenta e pericolosa alla società. Basta che una donna affermi la sua personalità perché le donne stesse le diano subito la croce addosso. Forse perché così piace all'uomo. E per compiacergli, preciso come nelle tribù selvagge, sono le donne che malmenano la sfortunata loro compagna se per sua sventura perde per qualche ragione la grazia del padrone comune. Nella donna il sentimento della maternità ha sviluppato, è ben vero, bellissimi ed elevatissimi lati di altruismo domestico. Ella è pronta a sacrificarsi con amore e rassegnazione per tutte le persone della sua famiglia. Ma questi sentimenti, se in origine furono la base della convivenza sociale, nei tempi moderni confinati a forza nella cerchia ristretta degli interessi esclusivamente familiari, degenerano in grettezza, avarizia ed egoismo domestico. L'altruismo familiare, spinto ad oltranza, è diventato nemico dell'altruismo sociale, che la donna sente poco o nulla. Onde, come osservarono molti sociologi, la donna nella società è un elemento essenzialmente reazionario e conservatore. ripercussioni sull'uomo. Ma questa tendenza non si ferma in lei. L'uomo stesso, nella convivenza continua con la donna, subisce, volere o non volere, per una suggestione inavvertita e incosciente, tutto il conservatorismo della donna, tutto il suo timore delle innovazioni, tutti i suoi sentimenti antisociali. E l'uomo viene punito da quel lato dal quale ha peccato. Egli ha voluto tale la donna, la tiene e la mantiene tale, e la donna, invece di completare l'uomo e aumentarne la potenza vitale, ne impaccia tutti gli slanci, onde egli si sente come tarpate le ali. Forse la leggenda di Sansone, l'eroe biblico a cui Dalila recide con la chioma le forze, contiene un intuito primitivo dell'accennato fenomeno. Anche oggidì, se c'è da scrollare le colonne di un tempio di superstizioni, se c'è dei filistei da percuotere e da annientare, se si dà il caso di un sacrificio pecuniario per qualche intento generoso, o se bisogna sacrificare tempo e fatica con danno lieve della famiglia per una utilità sociale, per un ideale, allora l'uomo risente tutte le conseguenze del non avere nella sua compagna una vera compagna, che senta e pensi con lui, all'unisono, che si interessi anche di ideali più larghi ed elevati e che veda anch'essa come il benessere familiare sia indivisibile dal benessere sociale. L'uomo in questi casi o cede, o si allontana moralmente dalla moglie. In ogni modo, se la donna, da questa vita moralmente parassitica, perde nella sua complessità perché non si sviluppa né intellettualmente né moralmente, l'uomo a sua volta subisce una diminuzione di potere vitale perché deve o disperdere gran parte delle sue forze più preziose nelle sterili lotte intestine della famiglia o sacrificare i migliori slanci del suo carattere. La donna è in sostanza quale l'ha fatta l'uomo. Le donne non hanno nessuna colpa del non avere idee e sentimenti propri. Ci vorrebbe una lega di uomini onesti, i quali, non con cortesie di cavaliere medievale, che hanno solo l'apparenza del rispetto alla donna, ma con una vera cooperazione di fatti, aiutassero a toglierla, mercé una istruzione più seria e più soda dalla sua eterna minorennità. E ciò sarebbe anche nell'interesse dell'uomo e della specie umana, perché se la donna è quale l'ha tenuta l'uomo fino ad ora, l'uomo viceversa è la creazione della donna, è lei che influisce sullo sviluppo del suo carattere, è lei che forma la sua intelligenza, onde è che giustamente fu detto che se gli uomini fanno le leggi sono invece le donne che fanno i costumi. E sapete pure che quando è conflitto fra le leggi e i costumi, il costume in definitiva è sempre il vincitore. Tutti mettono tanti lagni sulla decadenza del carattere degli uomini grandi e piccini al giorno d'oggi. Ah, lasciate sviluppare il carattere e la personalità nella donna. E la donna, vera madre, non educherà caratteri di pastafrolla, ma uomini veri. L'indipendenza economica, condizione dei diritti civili e politici. Mi pare quindi che solo col lavoro equamente retribuito, o retribuito almeno al pari dell'uomo, la donna farà il primo passo avanti e il più importante, perché soltanto col diventare economicamente indipendente ella si sottrarrà al parassitismo morale e potrà conquistare la sua libertà, la sua dignità e il vero rispetto dell'altro sesso. Credo che soltanto allora le donne avranno la forza morale di non subire più le pressioni del padre, del marito, del fratello, e potranno creare anch'esse in mezzo al loro sesso quell'arme potente delle lotte sociali moderne, che è l'associazione, per conquistare poi con quest'arme i diritti civili e politici che sono loro negati, come agli uomini interdetti per imbecillità, per pazzia o per delinquenza. Le leggi vigenti infliggono alla donna questa umiliazione atroce perché non solo gli uomini, ma anche le donne stesse considerano la donna come un'eterna minorenne ed ella non potrà mai diventare maggiorenne se non quando potrà bastare a se stessa, con la propria intelligenza, le proprie capacità e le proprie forze morali. In America c'è voluto un mezzo secolo di lavoro femminile nell'industria, nell'istruzione pubblica, nelle professioni libere, nessuna esclusa, perché le donne americane ottenessero non il diritto al voto deliberativo, che si è ottenuto in uno solo degli Stati Uniti, ma soltanto il diritto al voto consultivo nei corpi politici, nelle commissioni legislative e nelle assemblee generali. Non sono che 7 anni che la legislatura del Kentucky sentiva due donne, la Bennett e la Hogarth, patrocinare i diritti del loro sesso. Le donne, avvocatesse di sé medesime, suscitarono naturalmente grande curiosità, sia fra i deputati sia fra il pubblico, accorso numerosissimo alla Camera. Gli scettici e i maligni furono disarmati e vinti dall'eloquenza e dall'erudizione giuridica della Miss Hogarth. E lo stesso giorno fu presentato un bill che conferiva alle donne il diritto all'amministrazione dei loro beni e alle madri un'autorità sui figli uguale a quella del padre. Questo fatto, che troverebbe in Francia, in Inghilterra e altrove molti riscontri, che qui ometto per amore di brevità, non è che un esempio isolato, inteso a dimostrare come le leggi giuridiche sono la conseguenza di abitudini e costumi sociali, e non altro che la sanzione dei rapporti sociali già esistenti, allo stesso modo che le leggi cosmiche e biologiche non sono che la sintesi dei fenomeni osservati. Non voglio però cadere nell'assoluto e non negherò che se oggi, per una specie di miracolo, i legislatori uomini concedessero alle donne i diritti civili e politici, questo fatto eserciterebbe un'immensa influenza sul loro sviluppo intellettuale e morale, poiché è legge biologica che le funzioni nuove creano a poco organi loro adatti. Fra le donne sarebbe avvenuto su per giù lo stesso fenomeno che si osserva nella gran massa degli operai, uomini poco atti ancora alla vita civile e politica. Eppure, dopo pochi anni di partecipazione diretta degli operai alla vita politica, vediamo come dal loro balbettare quasi infantile si sviluppano oratori poderosi, forniti di cognizioni serie e di studi profondi sulle questioni vitali che agitano la loro classe. Ma ormai nessuna persona intelligente e di buon senso crede più ai miracoli. E le leggi vigenti, che riguardano le donne, subiranno la stessa evoluzione di tutte le altre leggi, perché, direi con le parole dello Spencer, che a misura che la cooperazione volontaria modifica sempre più il carattere del tipo sociale, il principio tacitamente ammesso dell'uguaglianza dei diritti per tutti diventa condizione fondamentale della legge. Le donne, quindi, cooperando a titolo uguale degli uomini al lavoro sociale sotto qualsiasi aspetto, renderanno impossibili le leggi attuali che le mettono in condizione di inferiorità fra i minorenni e fra gli incapaci, per imbecillità o pazzia. Per imbecillità o pazzia quanto ai diritti politici, e assegnano loro un posto così inferiore in famiglia quanto ai diritti civili. Certo è che finché la donna non potrà bastare a se stessa e per vivere dovrà dipendere dall'uomo, la legge, che la considera come proprietà del marito, dovendo la moglie seguirlo dovunque, rimarrà in tutto il suo vigore. E se quell'articolo così oltraggioso alla dignità umana della donna venisse anche abolito, questa abolizione non rimarrebbe che lettera morta, data la dipendenza economica in cui si trova la grande maggioranza delle donne. Il privilegio dell'uomo moderno. E infatti gli uomini intuiscono vagamente tutto cotesto processo di conseguenze morali che saranno immancabili una volta la donna, non solo delle classi povere, ma anche delle classi medie, entrasse nel gran campo della lotta per l'esistenza, e emettono tutti gli ostacoli possibili per impedire il lavoro professionale delle donne. È vero che ci entra anche in buona parte il timore della concorrenza, che viene dissimulato con ragioni di etica sociale, basate per lo più sui pregiudizi religiosi e sulla consuetudine, ma più di tutto vi influisce il timore incosciente di dover un giorno rinunciare, o per amore o per forza, alla loro autorità e prepotenza di sesso, radicate in essi fin dai tempi preistorici. E l'abdicare un potere è sempre cosa difficile, e lo consento, anche dolorosa. Vediamo dunque qual è il monopolio moderno dell'uomo di fronte alla donna che lavora nell'industria, nell'istruzione, nelle arti e nelle professioni, e se vi siano ragioni sufficienti che lo giustifichino. La operaia. Prima di tutto parlerò del lavoro e della retribuzione della donna salariata, perché Perché la gran maggioranza delle donne è concorrente degli uomini sul gran campo delle produzioni industriali e perché, quanto al valore morale comparativo dei vari lavori, mi pare che non vi siano lavori che possano né inorgoglire né avvilire in modo speciale. Fare la sarta o la filatrice non è inferiore dal punto di vista dell'utilità sociale al fare il medico o l'avvocato. E poi è anche una questione di giustizia. Chi risente maggiormente tutto l'orrore dell'inferiorità sociale della donna è precisamente la donna operaia. Ella è doppiamente schiava, da una parte al marito e dall'altra al capitale. Donna operaia, parola empia, dice Michelet, da un punto di vista sentimentale, e attribuisce al nostro secolo di ferro questo fenomeno che lo fa inorridire. E io direi donna operaia, parola redentrice, poiché appunto l'industrialismo moderno, con tutti i suoi mali, che renderà la donna povera uguale all'uomo e la sottrarrà alla sua dipendenza dall'altro sesso. Il numero delle donne impiegate nelle industrie e nelle manifatture è un vero esercito, che in certi paesi e in date industrie supera l'esercito operaio maschile e ce lo provano meglio di tutto le statistiche, per quanto siano incerte ed incomplete, poiché vere statistiche del lavoro e dei salari non esistono ancora. E i dati finora vengono forniti dai privati e dalle camere di commercio, essi sono però sufficienti per formarci un'idea approssimativa sui vari problemi dell'industria moderna. Col perfezionamento della meccanica vi sono ormai pochissime industrie alle quali non prenda parte in stragrande maggioranza la donna, né fanno eccezione le cosiddette industrie insalubri e pericolose. Basti dire che la si trova nelle miniere, nella lavorazione dei metalli, nelle fabbriche dove si producono le intossicazioni croniche da esalazioni chimiche velenose. Per questa grande maggioranza del sesso femminile che è la donna operaia, nessuno parla della famiglia che va di mezzo. Se la donna ha da faticare per 10, 12 e in certe produzioni anche 14 e 16 ore, qui si calpesta la femminilità, la maternità, l'allevamento dei figli, tutto ciò di cui si fanno arme gli uomini della borghesia quando è la donna del loro ceto che diventa loro concorrente nelle professioni. Salari femminili. E come viene retribuita la donna, produttrice di tante così svariate ricchezze in tutti i paesi d'Europa? Per rispondere a questa domanda converrebbe far di nuovo ricorso alle cifre. Basti dire che da tutte le statistiche, per quanto ancora scarse, si desume però con sufficiente certezza questa conclusione, che la donna, a pari lavoro, è sempre pagata molto meno degli uomini.